Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadore in regia e vicino a me l'allenatore della squadra hot del momento, Charlie Recalcati. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cos Peterson. Ciao amici sportivi, Charlie, buongiorno. Ciao Dan. Sei ciao. D'accordo? No? Ciao, nel ciao. Nostro campionato la squadra hot del momento è Varese. On fire. A sorpresa di tutti, perché l'ho visto nella Lombardia. Avevano le facce lunghe, hanno fatto, se non sbaglio, quarto posto su quattro squadre e non sembravano chissà che cosa. Poi sbancano, cioè battono Siena, sbancano Treviso e sono lì, pari merito con altre squadre, ovviamente per primo posto, quindi una grandissima partenza. Dalla faccia un po' così, Charlie, del Lombardia alle vittorie in fila con Siena e a Treviso. No, ma non erano facce di circostanza quelle del Trofeo Lombardia, erano effettivamente vere e molto, molto preoccupate, perché in quel momento avevamo seri problemi per quanto riguarda quello che doveva essere il centro titolare, e quindi non avevamo ancora risolto il problema, recupera, non recupera, lo sostituiamo. E non essendo una squadra lunghissima, chiaramente soffrivamo in quel momento in cui stavamo giocando molto di alcuni acciacchi e non avevamo grandissime rotazioni. Poi le cose chiaramente, i tempi sono cambiati, siamo andati verso il campionato, ci siamo allenati un po' di più, abbiamo avuto la possibilità di dare anche la possibilità di gestire alcuni giocatori non giovanissimi, la possibilità di recuperare da qualche problemino fisico. Si è risolto, direi, bene, visto come stanno andando le cose, ma in quel momento, prendendo una decisione che Collins non potevamo aspettarlo, perché voleva dire dedicare ancora troppo tempo e ne risentiva la squadra. Poi è arrivato Slay, che è un giocatore che conosce la pallacanestro soprattutto, sì, è un sì. giocatore che ci ha messo un attimo, non tanto a entrare in condizione fisica, perché chiaramente comincia adesso a essere in una buona condizione fisica, però ci ha messo un attimo a capire i compagni, lo staff tecnico, lo stare in campo, attacco, difesa, e quindi magari anche con poca autonomia, però ci ha dato una grossa mano. Giocatore, genio e sregolatezze, quando il genio prevale è un califfo dalle nostre parti. Eurolega, coach Dan Peterson, che tu hai commentato per Sport Italia, ti ho sentito ieri sera, well, facile per Milano. Yeah, ottimo, volevo solamente chiudere la parentesi sì. Su Charlie. È interessante che Charlie come giocatore era tiratore sì. Scelto, aveva Antonello Riva tiratore scelto, adesso Joby Thomas tiratore scelto, cioè la catena non si interrompe. E poi su questa questione del pivot, tagliare non tagliare, Charlie ha avuto grande pazienza nel 99 con Daniel Santiago, premiato con lo scudetto, quindi la pazienza e il lavoro viene premiato sempre. Eurolega Milano, grandissime vittorie. Io devo dire che Piero Bucchi allena Milano, questo è il terzo anno. Questa è la miglior partita che vedo loro giocare. Poi ovviamente uno può dire che Valencia aveva la sua colpa, evidentemente dopo la partita hanno cambiato allenatore con le storie lì, eccetera. Però io dico che nel basket tutto è relativo. Se io gioco bene, tu giochi male. Io gioco male, tu giochi bene. Uh-huh. Cioè è altalena così. E Milano ha giocato benissimo. Primo quarto hanno costretto in 10 minuti a loro 8-9-10 palle perse, in 20 minuti gli altri hanno tentato solo 20 tiri percentuali. Dopo 10 minuti loro non avevano una soluzione, anzi non sapevano neanche cominciare l'attacco, quindi grande difesa di Milano, ma soprattutto molto decisi, convinti in attacco, buona circolazione, Maciulis sulle scudi, e hanno avuto la miglior partita di Petrovic da quando lui è con la squadra, quindi una prestazione maiuscola che rimette loro sì. in diciamo posto per l'Eurolega. Adesso devono vincere il Corsi, è chiaro, però era molto meglio tornare con due punti che con un'altra sconfitta. Non c'è dubbio. Poi c'è Petravicius che, insomma, poveretto, ieri sera ha giocato benissimo almeno in attacco, in difesa fa fatica, è chiaro che deve fermarsi per riprendersi, e quindi questa è la decisione che Milano deve prendere nelle prossime ore con Van der Spiegel, che è già lì ieri sera in tribuna e potrebbe entrare al posto di Petravicius, in attesa ovviamente di Pechorov. Quanto a Siena, coach, brutta sconfitta a Istanbul con il Fenerbahce, una squadra imbattuta fino adesso in Eurolega. Pianigiani con grande realismo ha detto il massimo che potevo chiedere in questa partita alla mia squadra in questo momento era di limitare ancora un po' di più il passivo. Certo, infatti l'hanno fatto un pochettino. Ovviamente quando tu vieni stravolto dai rimbalzi, travolti diciamo 45-24, soprattutto penso 15 di questi in attacco, 17, una cosa così, cioè era veramente una cosa difficilissima per loro. Sbagliavano loro, pigliavano un rimbalzo, altra azione, tiro, canestro. E quindi, come sa Charlie benissimo, dell'Eurolega, in America lo chiamano un giocatore che è già alto, senza saltare, standing height, cioè altezza in piedi. Cioè, devi avere questi giocatori che sono 2'10, 2'11, 2'13, anche di più, Van Spiegel, tanto per citarne uno, perché loro vanno su per rimbalzi, vanno su per le stoppate, ma ugualmente preoccupante come le stoppate per Siena era il numero di tiri entrati di Caucanes e compagnia, stoppate, deviata, oppure come dicono in America, fra virgolette, tiri spaventati, okay? C'è un lungo cambio posizione di corpo, alza la parabola e sbaglio il tiro. Quindi veramente i lunghi di Fenerbahce hanno assolutamente dominato la partita, non ci sono storie. Poi loro hanno una grande squadra, molto profonda, molto talento, ben allenata da Spacchia. Ti chiedo ancora questo, Cos, poi sono tutti i temi che riprendo con Charlie, che mi farà compagnia per questa ora. Anche ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde come sempre. Roma e la sua crisi, Roma e le sue paure, Roma che si guarda allo specchio e non si riconosce, non capisce che cos'è. Stai chiedendo a me, Carlo? Sì, ma io voglio inserire un'altra piccola cosa qui. Ieri, l'altro ieri a Istanbul, quasi 15.000 persone. Quando una squadra, pure Siena, che gioca quasi sempre in Italia davanti a buoni pubblici, ok, 5.000, 6.000, però 15.000 è un'altra storia. Quindi vorrei vedere in Italia impianti pieni per le partite di campionato, di playoff, di Eurolega, eccetera. Tornando a Roma, quella, la domanda che tu hai chiesto, c'è una squadra che non è venuta ancora insieme, questo è matematico, ma io penso che abbiano le possibilità di fare qualcosa, perché mi hanno fatto una buonissima impressione la prima partita di Eurolega contro Bamberg, e noi vediamo adesso che Bamberg è una squadra, Brose e Bamberg è una squadra seria, cioè proprio non è una squadra debole, hanno giocato benissimo, ha vinto Charleroi con molta autorità. Improvvisamente un blackout, soprattutto in attacco, soprattutto Charles Smith, che veramente è una crisi che non si può neanche descrivere adesso. E quindi loro non hanno il punto di riferimento in lui, qualche problema in regia, chi fa playmaker, chi non fa playmaker, hanno i lunghi che sono giusti, Crosariol gioca una partita sì, uno no, quindi hanno diversi problemi da risolvere. La cosa che mi dice che è possibile fare, lì c'è Bogdan Tanjevic, e lui è uno che sa fare queste cose, gestire queste cose qua. Secondo me il suo input sarà cruciale per lo staff tecnico di Bonicciolo e compagnia, per la squadra, per la società, per tutti, per tutti quanti. Inutile negare che oggi loro sono in una crisi blu, che devono uscire, non so come, non so quando, perché il calendario certamente non gli sorride. Certo, grazie coach, alla ciao prossima. Ciao ragazzi, Charlie, ciao. Ciao Dan. Ciao ciao. Adesso vi tengo Charlie Regalcati su tutti questi temi. Torniamo adesso, traffico, poi di nuovo insieme. Palla spicchi. Varese va, Varese va, Varese va. Qui si respira aria pura e libertà. E questa era una musica relativa ad un altro sport, mondiali di ciclismo, ma Varese va mi sembrava opportuna e appropriata. Charlie, Siena capoclasse, di cui abbiamo ora discusso i problemi, e poi ti chiedo conferma dell'analisi di Coach Peterson. Treviso, una delle aspiranti alla corona, una delle aspiranti allo scettro, messe in fila una dopo l'altra. Quella che ti ha dato più soddisfazione? Se mi dici Treviso non ci credo. Mi ha dato più soddisfazione la prima, perché poi la seconda è stata la conseguenza della prima. Ma mi ha dato soddisfazione chiaramente la vittoria, perché sarei un bugiardo dire che non è così. Però mi ha dato grandissima soddisfazione vedere la mia squadra giocare in quel modo contro Siena, e giocare una pallacanestro che forse non è nel suo DNA. Perché noi abbiamo una squadra non giovanissima, non fatta da grandissimi atleti, però giocatori che hanno capito che il tipo di pallacanestro che si deve giocare è quello dei contatti fisici, sì, del non aver paura di prendere delle botte, di portare dei blocchi forti, di passare forti sui blocchi. Però è che siete riusciti a tenere questo atteggiamento per 40 minuti. E questo, esatto, questo è stato proprio il dato estremamente più positivo. E poi lo abbiamo portato a Treviso, e questo fa ben sperare al di là dei risultati, proprio perché siamo sulla strada buona. Quindi se abbiamo capito che dobbiamo fare un passo in più, magari ci costa fatica perché è uno sforzo mentale che dobbiamo avere per cercare di essere così consistenti, però se riusciamo a tenere per qualche mese in questa linea qua, chissà mai che lo sforzo mentale poi non sia più tale, perché diventa un atteggiamento consolidato. E allora, per cui ci teniamo stretti, ecco, sicuramente le vittorie, però ci teniamo molto stretti il nostro atteggiamento, ed è quello che vogliamo avere. Cerchiamo di averlo sempre, cerchiamo di averlo negli allenamenti oltre che nelle partite, però le vittorie sicuramente aiutano da questo punto di vista qua, perché vuol dire che la squadra si convince, certo, che la strada è quella intrapresa, è quella giusta, si convince di poter essere in grado di giocare anche a una certa intensità, magari, appunto, come dicevo prima, prendendo colpi, subendo anche i colpi, andando in terra tante volte, come è capitato a alcuni miei giocatori, però rialzandosi e non stando lì troppo a piangere sui mali o sulle botte che si sono prese, ma cercando anche di restituirle, chiaramente il tutto in termini sportivi. Ho letto la tua dichiarazione dopo la vittoria su Siena, mi sono fermato lì a guardarmi intorno perché mi piace vedere gente felice. Sì, no, questa è una delle cose che danno maggiore soddisfazione. Io sono stato veramente fortunato nella mia vita, perché ho avuto la possibilità di contribuire ai successi di molte piazze che hanno vinto per la prima volta, no? Così è stato con Siena, così è stato con la Fortitudo, così è stato con Cantù quando ero giocatore, così è stato anche con Varese quando abbiamo vinto la Stella, ed erano 20 anni che non si vinceva. E allora quando succedono quelle cose lì, chiaramente adesso abbiamo vinto solo una partita, però una partita contro Siena, no? Una partita simbolica, dai. Ecco, la cosa che mi piace di più è spendere, prima di essere travolto dagli entusiasmi così, e spendere magari qualche secondo, 10 secondi, guardandomi attorno e vedendo che c'è della gente impazzita, c'è della gente veramente che dà via di testa. E quello è la cosa che in quel momento lì ti realizza il fatto che hai fatto qualcosa di importante. Certo. Senti, tornando invece a Siena e ai suoi problemi, prima parlavamo con Coach Peterson, ai suoi problemi, alle sue difficoltà di crescita, sono problemi credo fisiologici per una squadra che ha cambiato così tanto. Tu come hai visto? No, assolutamente. Ma io ho visto una Siena che sta cercando di avere degli equilibri nuovi, che sono chiaramente equilibri diversi rispetto a quelli che aveva in passato. Perché è vero che Siena gode di un grande vantaggio, quello di avere un'organizzazione, quello di avere una programmazione che sta andando avanti da anni, uno staff tecnico consolidato, un nucleo di giocatori importanti partendo da Stonruk per la squadra. Però è chiaro che hanno cambiato molto, e soprattutto hanno cambiato prendendo giocatori diversi all'interno dello stesso ruolo. Sì. McCaleb è molto diverso da McIntyre, Rakovic è molto diverso da Eze, senza dire adesso chi era meglio o chi è peggio, diversi, sì, certo, però sicuramente diversi, il che vuol dire che per forza di cose devi avere anche una pallacanestro un po' diversa, anche se poi l'organizzazione è sempre la stessa, però all'interno dell'organizzazione, sia offensiva che difensiva, gli interpreti sono diversi, e gli interpreti non puoi avere la pretesa che McCall faccia il McIntyre, perché magari in un certo momento ne hai bisogno. Ma non può essere un limite questo, cioè non è che Siena deve fare qualcosa di diverso rispetto al passato, non può rimanere questo, di quella squadra questo, è finita. Questo lo dovrà fare, dovrà trovare equilibri nuovi, contando comunque sulla propria organizzazione, sulla propria capacità di avere questa forza, questa durezza mentale che gli ha permesso negli anni di superare, perché noi ci ricordiamo Siena negli ultimi 2 anni, ricordiamoci Siena il primo anno di Simone Pianigiani, quando sostanzialmente era una squadra abbastanza nuova, o comunque costruita con un nucleo nuovo, McIntyre che arrivava ed era per la prima volta a Siena, Eze che chiaramente andava acquisendo un ruolo da protagonista, cosa che negli anni precedenti non aveva avuto. e quindi doveva cercare una sua dimensione. Adesso siamo un po' in quella situazione lì, con un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è quello che chiaramente c'è un'esperienza consolidata e un gruppo di lavoro, certo, consolidato. Lo svantaggio è che purtroppo si fanno sempre dei paragoni, quindi diventa facile per tutti pensare, guardando la scena di oggi, pensando a quella che era l'anno scorso. Ma com'era più bella quella di prima? Luca da Imperia, poi ti sfido uno contro uno, sì. Attento. Luca! Sì, buongiorno. A lei, dica. Saluto al mister. Si chiama coach, sì. Mister nel calcio. Sì, ma per me è un mister. Mister, va bene. Sir Charles. No, adesso mi spiego. Io ho avuto una grande fortuna e una grande disillusione, ed è colpa sua, ma non gliene faccio una colpa, anzi, mi ha aperto gli occhi. 25 anni fa, forse di più, è venuto a trovare il nostro allenatore, che era Adriano Rusconi, a Omegna, sul Lago d'Orta. È venuto un giorno e ha fatto a capire a tutti che cos'è la pallacanestro. Ci ha fatto morire, perché faceva correre la palla come io non ho mai visto correre, e tirava in una maniera spaventosa. A parte questa lisciata di pelo, che però merita perché è un grande, qui casa volevo capire amici, dove può arrivare Varese, perché io ho smesso di guardare Varese e la pallacanestro probabilmente l'anno dopo che lui è andato via da Varese. Sì, forse si capisce che sono un tifoso. Sì, qualcosa ho intuito. Dove può arrivare un domandone anche per me, perché all'inizio di questa stagione sono stato un pochino messo sotto pressione, così, nell'ambiente varesino, perché non avevo fissato un obiettivo, perché tutti avrebbero voluto che si sentisse parlare di playoff. No? Playoff è una gran bella cosa, una cosa che riempie molto la bocca, però in tanti ci vogliono arrivare ai playoff. E noi eravamo una squadra obiettivamente molto nuova, sapevo le difficoltà che avevamo avuto nel costruirla, e quindi secondo me, ed è così tuttora, il grande impegno, il grande obiettivo che deve avere Varese e questa squadra è quella di cercare di andare in campo ogni partita ed esprimere il 110% del proprio potenziale, quindi riuscire ad andare addirittura al di sopra di quello che potenzialmente la squadra ha. Esprimere questo vuol dire innanzitutto fare una pallacanestro che poi dopo avvince e piace. E questo è un altro degli obiettivi che dobbiamo avere. Dobbiamo riempire un palazzo dello sport, e il palazzo dello sport lo si riempie sicuramente con i risultati, però lo si può riempire anche con un certo modo di fare pallacanestro, un certo modo di stare in campo, la capacità dei giocatori di trasmettere sensazioni forti ai tifosi e fare in modo che possano appunto tornare a gremire il palazzo dello sport, perché non dobbiamo dimenticare che Varese quest'anno ha un grande concorrente, che è il calcio. Sì. Forse per la prima volta, adesso forse non sono abbastanza preparato nella storia varesina degli sport, però sicuramente è una delle prime volte in cui il calcio fa concorrenza alla pallacanestro. La pallacanestro, sì, il basket, non ha mai sofferto di questo, lo ha sofferto magari in altre piazze tipo Milano, tipo Roma, però non sicuramente a Varese. Invece quest'anno c'è, perché Varese sta andando molto bene, è neopromosso in Serie B, sta facendo un ottimo campionato, sta giocando molto bene, e quindi dobbiamo anche superare questa. E poi abbiamo l'altro obiettivo, che è quello che la squadra è nata prima della società. La squadra è nata a luglio e la società, questa nuova società, questa nuova proprietà è nata il 18 di settembre. E quindi il nostro compito è quello, appunto, come obiettivo anche di permettere alla società di consolidarsi. Consolidarsi, certo, vuol dire non solamente appassionare il pubblico perché possa venire a vedere le partite, ma appassionare gli sponsor e appassionare soprattutto i potenziali consorziati che possono entrare in questo consorzio, che è un esperimento nuovo in Italia e che sta dando per il momento buoni frutti, però ha bisogno di essere incrementato, e lo possiamo incrementare solamente con l'aiuto della squadra. Certo, quindi tu stai costruendo la squadra, c'è Covescovi che sta costruendo il futuro di questa società, di questo, sì, di questo il nostro, io sinceramente l'ho detto, poi noi se daremo la possibilità alla società di essere in condizione nella prossima estate di poter programmare non solamente la stagione successiva, ma le stagioni successive, vuol dire che noi abbiamo ottenuto il nostro, certo, grande risultato. Certo. Ci fermiamo un attimo per la borsa, subito dopo torniamo uno contro uno con Charlie Recalcati. State con noi. Palla spicchi. Ecco che torniamo. C'è qui con me Charlie Recalcati, che tra poco sfiderò. Aspetto altri ascoltatori. 800 24 00 24 numero verde. Nel frattempo è arrivata anche una mail di Mariano da Caserta, che poi leggo, e parla di questioni arbitrali, tanto per cambiare. Ma intanto uno contro uno. Pronto Charlie, ho qualche domandina per te. E questa è una sorpresa. Eh sì. Due settimane fa, appunto, la vittoria sulla Montepaschi di Simone Pianigiani. Quanto deve ancora correre l'allievo per superare il maestro? No, non deve correre. Cioè, io credo che bisogna guardare i dati di fatto. Simone ha vinto, ha cominciato ad allenare, ha vinto subito, continua a vincere. Io mi tengo stretta la mia esperienza, perché vuol dire che ho già passato molti momenti che Simone non ha ancora passato. Tra il mare a cui auguro, voglio dire, di non doverli passare, però credo che sia storia di tutti gli allenatori, insomma, avere anche momenti non sempre felici, quindi è fisiologico. È un passaggio normale, ed è un passaggio che sicuramente ti permette di crescere. Tra il mare di Barcellona, Pozzo di Gotto e la bruma di Varese, hai scelto la seconda. Sei pentito? No, non sono pentito. Io, così come sarei stato molto contento, e sarei molto contento se in questo momento fossi a Barcellona, Pozzo di Gotto. Mi piace. Io mi sono trovato benissimo al sud. Sono stato 5 anni a Reggio Calabria, splendida. Sono stato a Barcellona durante la stagione, ospite del mio amico Sandro Santoro, a vedere i playoff. Ho avuto la possibilità di vedere tanto entusiasmo, e quando ci fu la possibilità di tornarci per parlare concretamente di una mia possibilità a Barcellona, ci sono andato convinto, ma veramente convinto, che potesse essere la realtà giusta per me, per l'entusiasmo che c'era, per gli obiettivi che ci sono e che sicuramente riusciranno a perseguire. E poi, come spesso succede, ma come mi è successo spesso, non è la prima volta che mi capita di essere ormai indirizzato, forse è il destino che poi dopo ti dice dove così, devi andare, dove sì, ma mi è capitato adesso, era Barcellona, Pozzo di Gotto, e poi dopo è stato Varese. A suo tempo fu Malaga, e poi dopo già scelta la casa, e poi dopo fu Fortitudo. Sì. Il destino ha spesso scelto, non dico per me, ma mi ha indirizzato a scegliere, e devo dire che quando è stata così è sempre andata bene. Senti, per te il Pianella è più una casa o adesso il covo del nemico? No. Beh, intanto cerchiamo di goderci il Pianella, perché ci sarà ancora, e dico fortunatamente ancora, per un paio d'anni. Sì. Ed è uno di quegli impianti che trasudano storia, quindi il fatto di far parte di quella storia, soprattutto di avere inaugurato quella storia, perché il Pianella è stato inaugurato nel 1975 e io ci ho giocato la prima partita che si è giocata. La prima partita che si è giocata al Pianella si è giocata a Cantù contro Varese. È stata la partita di inaugurazione del Pianella. Quindi, come posso vedere il Pianella come un luogo nemico. Poi ti devo dire anche una cosa, che sono molto contento però che giocheremo l'ultima partita del campionato al Pianella. Andrete a chiudere la... E spero veramente che a quel punto i giochi per noi siano già fatti. Cantù o Milano, però, qual è il derby vero? Quello con Cantù o quello con Milano? Allora, io sono nato tifoso milanese. Però non avendo mai potuto poi giocare o allenare per Milano, mi ha sempre dato grande soddisfazione vincere contro Milano. E quindi il derby vero è con Milano. Adesso mi devi dire tutta la verità sull'età anagrafica vera di Galanda, perché non può avere 35 anni. Ne ha 48. Senti, se dovessi scegliere invece uno dello scudetto della Stella, uno dei protagonisti dello scudetto della Stella, per la tua Varese di oggi, chi vorresti? Ce l'ho. Ce l'hai Galanda, naturalmente. No, ce l'ho, c'è il presidente. Come faccio a dire che non vorrei il presidente della mia squadra? Quanti litri d'acqua santa hai usato per gestire Pozzecco e Meneghin nel 99? No, Acquasanta no, Acquasanta no, insomma. Ma io è una regola che ho sempre usato, poi insomma alla fine trovi sempre delle situazioni che devono essere gestite, che possono essere o l'individuo eventualmente una situazione che viene a creare, e io sono fermamente convinto, proprio per dati di fatto, che nessun allenatore da solo può gestire certe situazioni. Un allenatore può gestire il gruppo a far sì che possa accettare determinati personaggi, determinate situazioni. Quindi il grande lavoro, il grande merito della gestione di Pozzecco e Meneghin, ma direi soprattutto Pozzecco, va dato alla squadra che c'era in quegli anni, che mi aveva permesso appunto di far sì che Pozzecco potesse rimanere tale e non chiedergli di doversi snaturare, però a quel punto non avremmo avuto lo stesso giocatore, non avremmo avuto lo stesso impatto, per cui insomma non tanto Acquasanta, ma quanto professionalità e comprensione da parte dei suoi compagni. Acquasanta però non è tenuto una scorta per Onsley. Beh, adesso stiamo cercando di percorrere questa strada e... Ma Ron, ti dico, è una piacevole sorpresa. È una piacevole sorpresa. Prima di tutto perché io apprezzo i giocatori che hanno personalità. Che conosco, che hanno assolutamente personalità, ma soprattutto che conoscono la pallacanestro. E Ron è uno che... Non so perché chiamassero Childress il professore, ma sinceramente, per non fare torto, non volendo far torto a Childress, dico che forse il vero professore è Ron. Hai detto che la nazionale ha trattato male Soragna qualche tempo fa. Meneghin ha risposto: Recalcati pensi a Varese non si occupi della nazionale. Vuoi replicare ancora? No, no, assolutamente. Io non voglio troppo bene la nazionale. E io mi sono sentito di dire quelle cose. Mi è sembrato anche giusto che Dino rispondesse in quel modo. Era la risposta che io mi aspettavo. Ah. Perché l'avrei fatto anch'io al suo posto. Io da innamorato della nazionale mi sono sentito di dover riconoscere a Soragna, ma non Soragna in quanto tale, ma Soragna in rappresentanza di tutti i giocatori che avevano fatto parte delle mie nazionali e di tutti i collaboratori che avevano lavorato per la squadra nazionale, soprattutto perché non dobbiamo dimenticare che con la nazionale ci sono ruoli che vengono ricoperti da professionisti a contratto e che quindi devono assolvere un certo lavoro, come potevo essere io, come può essere il fatto di Simone in questo momento, e poi dopo in contrapposizione ci sono la stragrande maggioranza che sono dei volontari, perché tutti quelli che collaborano con la nazionale, è vero che hanno una diaria, però insomma, non è sicuramente quello. I giocatori non sono pagati dalla federazione, ma sono pagati dalle società, e quindi secondo me avere memoria fa grande una nazionale, fa grande una federazione. L'ultima domanda, Charlie, te la fa un ascoltatore di Caserta, che appunto Mariano da Caserta, che ha inviato questa mail. Poi c'è anche Francesco da Brescia, ma dopo il traffico. Siamo sicuri che giocando allo stesso modo Varese a Siena avrebbe vinto lo stesso? Considerando i due falli antisportivi non fischiati a Stone Rock durante gli ultimi minuti di Montepaschi Vive Caserta, ho i miei dubbi. I fischi degli arbitri vanno rispettati e accettati, ma non è la prima volta che quel giocatore viene graziato così. Accetto la sconfitta e le decisioni arbitrali, ma mi sarei aspettato almeno un richiamo a quella terna. Che ne pensate? Siena e gli arbitri. A me sembra veramente, cioè io non mi sono sempre imposto di non parlare degli arbitri, ma né nel bene né nel male. Ne parlavo con Faiardo, perché lui domenica si era lamentato di un non fischio di un arbitro. Io credo che facciano assolutamente parte del contesto della partita, quindi ci possono essere errori da parte dei giocatori, da parte degli allenatori, errori da parte degli arbitri. La cosa importante è che siano sempre errori fatti in buona fede, e non credo che agli arbitri faccia piacere, nel momento in cui si rendono conto di aver fatto un errore, che venga rimarcato questo può essere l'errore più grosso che si possa fare. Io non credo nella sudditanza psicologica, io credo che ci sia da parte degli arbitri la volontà di interpretare un certo tipo di pallacanestro. Il pallacanestro è quella che vediamo nelle partite di Eurolega, sì. E vediamo che è una pallacanestro fatta di grande consistenza fisica, sì. Di grande durezza mentale. E questo fa sì che ci siano anche dei contatti a volte molto, molto duri, molto, molto aspri. L'arrivare a valutare che cos'è antisportivo o non è antisportivo, obiettivamente ci sono dei paletti ben definiti ai quali gli arbitri si devono attenere. Grande Charlie, ci fermiamo un attimo, traffico, poi Francesco da Brescia, ci avviamo verso la conclusione, aspettiamo naturalmente per tirare giù la Claire anche Flavio Tranquillo. A dopo. Palla spicchi. Torniamo in onda sempre con Charlie Recalcati che ha stravinto 1-1 naturalmente. Francesco Brescia, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere che cosa ricorda, visto che ha parlato dell'inaugurazione del palazzetto di Cantù, sì. Invece di quell'anno giocato a Brescia in mezzo al deserto tante serate, eravamo 4 o 5, poche decine a guardarvi in vista del Recalcati. Sì. Mi ricordo due cose, prima di tutto che non abbiamo mai perso in casa. Perché abbiamo proposito del fattore pubblico. Esatto, a proposito del fattore pubblico abbiamo giocato, però era il periodo dell'austerity, quindi non c'era neanche la possibilità di viaggiare con le macchine, però i tifosi canturini venivano a Brescia con pullman e giocavamo un campionato praticamente a Brescia, che non avevamo ancora il pianello non era ancora stato costruito, e vincemmo tutte le partite in casa, e quindi questo grazie anche al pubblico che arrivava da Cantù e ai pochi che venivano da Brescia, però sicuramente ci seguivano con grande entusiasmo. E l'altra cosa è una cosa che non dovrei dire, perché se mi sentono i miei giocatori si potrebbero anche ammutinare. Il fatto di essere a Brescia praticamente andavamo lì il venerdì fino alla domenica, allora non si usava la domenica mattina a fare allenamento. E al nostro allenatore venne in mente, ma visto che siamo qua, perché non andiamo a fare allenamento? È una cosa che disturbava molto, perché chiaramente i giocatori vanno molto per abitudini, no? Noi non eravamo abituati, e una volta, due volte, tre volte era una cosa che insomma scocciava un po', ma proprio perché mentalmente non eri pronto, non eri abituato. Io ero capitano e quindi ho dovuto fare le parti della squadra, chiedendo all'allenatore di non allenarci più al mattino della domenica, e lui mi disse: va bene, facciamo così, oggi non ci alleniamo. E chiaramente lui ha giocato sul fatto che giocavamo una partita molto importante, se non mi ricordo più se era Varese o Milano, perché quelle erano le avversarie. Vuol dire che se vinciamo allora non faremo più allenamento la domenica mattina, se però perdiamo lo facciamo sempre. Fu una sorta di scommessa, abbiamo vinto tutte le partite, per cui è chiaro che da quel giorno in poi la domenica mattina non ci siamo più allenati. Oggi ci alleniamo regolarmente, sistematicamente, quindi ormai i giocatori sono anche mentalmente pronti e preparati a fare questo. Io sono curioso stasera di sentire cosa ti dice Galanda. Arriva lì e dice: adesso come la mettiamo? Ci giochiamo qualche allenamento? No, Galanda lo sa che ci possiamo giocare degli allenamenti sulle vittorie, questo sicuramente sì, sulle vittorie importanti. Infatti su Siena c'è stata una cosa di questo tipo qua, su Treviso c'è stata una vittoria su Treviso qua. Cioè, tra un po' non vi allenate più? No, tra un po' no, ci alleneremo tanto, però ogni tanto ci sarà una sorta di premio partita di questo tipo. Ciao Flavio Tranquillo. Ciao Carlo Genta. Stai sentendo? Sto sentendo con grande interesse. Ciao Flavio. Ciao Carlo. Senti, dicevo in apertura, Varese on fire in questo avvio di stagione, ti ho rubato le parole forse. No, Varese on fire, credo che non sono in tanti quelli che l'avrebbero detto, io non l'avrei detto avendoli visti giocare solamente ad Esio al Trofeo Lombardia o leggendo la lista, però io credo che non esistano le squadre, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti che apoditticamente sono bravissimi o scarsissimi. Esistono allenatori che con certi giocatori, certi dirigenti in certe società, in certe città tendono a far bene, e in altre situazioni tendono a fare meno bene. presumo, rileggendo adesso alla luce di questi risultati la situazione, che la combinazione sintetizzo Recalcati, Vescovi, Galanda, Thomas, Fajardo, eccetera, eccetera, Varese sia una combinazione di tipo A. Io ho come al solito qualche domandina per te che ci arriva via Facebook sul sito del programma. Io una per Carlo, è importante. Allora falla subito, poi te ne faccio un paio io. La domanda è questa, perché sabato c'è Cantù contro Siena. Vedendo un po' di materiale per preparare questa partita, ho visto che sia lui nel finale di partita che Sacripanti hanno messo grande pressione su Stonruk, almeno negli ultimi 5 minuti di partita. Ho visto Fardo che gli andava a giocare a un metro, ho visto Jumaine Jones che gli ha strappato una palla, lo anticipava fortissimo. Laddove invece in tantissimi negli anni passati hanno detto Stonruk a poco tiro, lo lascio da solo, lascio il suo uomo in mezzo all'area pronto ad aiutare su tutto il resto. Volevo sapere se ho visto bene, e se ho visto bene qual è la ratio, posto che lui Stonruk l'ha allenato, Sacripanti Stonruk l'ha allenato, quindi mi fido molto di quello che fanno in difesa gli ex allenatori di un certo giocatore contro quel giocatore. Sì, noi abbiamo cercato di aggredirlo anche all'inizio partita con Righetti, perché avevamo in campo Kangur che mi permetteva di fare questo, e però l'idea era quella proprio di togliere a lui la possibilità di guardare tutto il campo. Sean è la mente, è il cervello di quella squadra, senza niente togliere ai playmaker di turno, però è quello da cui passano, su tutte le situazioni di pick and roll, su tutte le situazioni di taglio, passano i palloni, per non tanto per essere pericoloso in prima persona, ma per cercare di mettere la palla nel posto giusto. Quindi l'idea è stata quella di possibilmente evitargli di ricevere la palla, ma in caso di ricezione mettergli grande pressione in modo da non dargli la possibilità di guardare bene il campo, costringerlo a proteggere la palla al punto tale da magari subire una penetrazione, quando d'altra parte abbiamo subito anche noi una penetrazione di uno contro uno. Però è meglio che metta la palla a terra piuttosto che la tenga sopra la testa guardando tutto il campo. Dunque hai visto giusto, Flavio? Sì, e soprattutto è una cosa particolarmente interessante, anche perché nella mia modestia ne sono sempre stato convinto, vederlo fare con questi risultati, l'ha fatto anche il Fenerba, cioè avete visto forse la partita un paio di volte, è stato costretto ad andare dentro, poi il Fenerba c'è in mezzo all'area, grandi stoppatori, gli ha tirato due stoppate. Però se non riesce a far giocare la squadra, allora anche McIntyre sarebbe stato in difficoltà, perché è una cosa, ancora una volta, come il discorso di prima, una cosa è McIntyre con vicino Storru come altro playmaker, perché anche McIntyre non nasce esattamente Aldo Ossola, certo. Mike D'Antoni nasce come attaccante. Un'altra cosa è McCaleb con vicino Stonruk, magari pressato in questa maniera, o anticipato in questa maniera, o con la difesa più vicina in questa maniera. Flavio, una domanda per tutte, che tra quelle che sono arrivate ovviamente Miami, che sembra il Real Madrid di Florentino Perez, almeno a giudicare dall'ultima sconfitta nella notte con i Celtics. Allora, per l'ultima sconfitta della notte contro i Celtics, sì, sembrava il Real Madrid, poca voglia, grandi bizze, tantissime stelle, poco gioco d'assieme, anche poca difesa, contrariamente all'inizio. Però giudicare da una o nove partite un discorso che è 82 più X che giochi nei playoff è sbagliato. Pensare, anche se hai speso 400 milioni, che basti spendere 400 milioni per vedere quelli tradotti in gioco sul parquet, è altrettanto sbagliato. Io penso che queste un pochino siano delle veline, nel senso che quando spendi 400 milioni, quando ti presenti con una certa arroganza, quando sei super favorito, ogni volta che starnuti ci sono 500 giornalisti e 42 televisioni, chiaramente tutti aspettano che tu perda per dire l'allenatore è troppo giovane, LeBron James è troppo individualista, Wade la mette solo per terra, non ha un tiro da fuori, non hanno un centro, che sono tutte cose vere parzialmente. Però io aspetterei un attimo di vedere come butta nel medio e lungo periodo prima di dire questi qui sono una squadra di brocchi o sono una squadra da media classifica NBA, certo. Come dice in questo momento la classifica 5-4. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Un abbraccio, grazie. Ciao, Flavio. A Flavio Tranquillo. Charlie, grazie, ti aspettiamo quando potrai, naturalmente, questa è casa tua. Grazie mille. Grazie Charlie Recalcati, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia, con lo sport domani pomeriggio alle 5. Buona giornata.